Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. La decisione di Pancia secondo me era una cazzata clamorosa, più grande di quelle che già ne ho fatte tante. E questo penso che sia il momento giusto per, tra virgolette, continuare e dargli e fargli l'ultimo miracolo della mia carriera, di fare una grande stagione con questa squadra. Non può esistere un'isola che non c'è. Sì. Guardate, mi dispiace quasi di usare una canzone così bella, così emozionante per una storia così triste. Giorgio De Luca, nostro autore, Paolo Corleone oggi in regia. Buongiorno a tutti. No, Cassano non gioca più nel Verona. Ha deciso che non gioca più. Il presidente Setti ha detto non ce la fa con la testa. Lui ha detto no, il mio non è un addio al calcio, solo che non voglio giocare qui. Quello che mi auguro io, con tutto il cuore, è che questa storia di Peter Pan sia chiusa qui definitivamente. Ma è una mia idea, eh? 800240024 e poi non ne parlo più. Però voglio sentire il parere del mio amico Riccardo Trevisani da Sky. Ciao Riccardo. Buon pomeriggio a tutti. Se ne può più, che tristezza. Credo che stavolta sia però la fine definitiva, almeno sul Verona, non sul calcio, ci ha detto. Ma quindi. Sì, ma io mi auguro anche sul calcio, perché dai, non è serio, ma non stiamo cercando, voglio dire, il massimo del se sempre un gioco, lo prendiamo così, però dai, non c'è un limite a tutto, anche alla favola di Peter Pan. Sì, anche perché era così bella l'idea di poterlo rivedere con Pazzini, una piazza così entusiasta. I veronesi erano esatto. Contenti. Pardo, non lo so se è contento, l'ho sentito prima in mezzo al mare, faceva orecchie da mercante, tanto per dirti. Senti, mi interessano di più però altri temi che voglio spizzicare con te, poi ne parlerò con gli ascoltatori, con altri ospiti. Ad esempio, sai benissimo, questa guerra nemmeno tanto fredda tra Bonucci e la Juventus con Chiellini, che insomma piano piano con le parole posate però tira una bella sassata all'ex compagno, eccolo qui. Bene o male è un compagno che dico di tutto, negli ultimi 7 anni ho visto più lui insieme a Gigi, Andrea, di chiunque altro, famiglia nostra compresa, quindi a livello umano mancherà tanto, per il resto insomma giocatori siamo tanti giocatori importanti, magari può arrivare un altro difensore che ci permetta di tirare il fiato e gestire al meglio le energie, ma credo che tecnicamente eravamo 5 difensori, siamo 4 difensori di altissimo livello con caratteristiche diverse e quello sinceramente mi preoccupa meno. Riccardino Trevisani, allora anche qui una parentesi, un capitolo che si poteva forse risparmiare, soprattutto a parte di Bonucci, no? Sappiamo quello che ha detto, questa è la risposta molto posata di Chiellini, ci mancherà come compagno, come giocatore, sì. Ciao. Diciamo che la polemica è sempre bella, però onestamente in questa situazione poi pretestuosa. Sì, se vogliamo dirlo, la Juventus ha fatto a meno di Bonucci perché ha accettato un'offerta in 48 ore, Bonucci voleva cambiare, ha deciso di rinunciarci fondamentalmente, e il Milan voleva un grande leader. Credo che è un accordo che alla fine faccia contenti tutti. E alla fine Chiellini dice giustamente: ho visto più lui che, che la mia famiglia, no? Che la mia famiglia, certo, sì, certo, quindi umanamente c'era un grande legame. Io sono d'accordo sulla non indispensabilità di nessuno, nel senso che tutti si possono vendere. La Juve la prima ve l'ha dimostrato con Tevez, con Pogba, con Zidane, se vogliamo tornare indietro, quindi tutti si può fare a meno. Umanamente gli mancherà, come penso possa mancare l'abitudine e la facilità di vittoria della Juventus a Bonucci, però penso anche alla sfida che può provare un ragazzo di 30 anni di provare a riportare il Milan ai suoi sì, palchi. Questo va benissimo, ma siamo tutti d'accordo, non c'è bisogno, però secondo me da parte di Bonucci non c'era bisogno, o aveva effettivamente scazzato con Allegri, quindi ha voglia di così di buttarla giù un po' dura con Allegri o col club o non lo so io, oppure era qualcosa che si poteva evitare. Mentre c'è poi l'altra storia, quella di Neymar, che conosciamo, non è ancora finita perché sembrava tutto fatto, 222 milioni di clausole rescissorie e via al Paris Saint Germain. Piqué ha twittato: no, resta con noi, vediamo. Questa magari ne parliamo, bisognerà dopo vederlo. Bisognerà vederlo, sì. Fino a che non lo vedo non ci credo. Riccardo, sei d'accordo con Sarri che in questo modo e con queste parole frena sullo scudetto? Niente di nuovo, però Sarri. Spero solamente crescano i nostri. Abbiamo tanti giocatori che sono under 23, quindi probabilmente margini di crescita ce l'hanno, e speriamo che crescano più velocemente possibile. Però ti ho detto, io ho la mente matematica, faccio fatica a pensare che noi siamo protagonisti assoluti della stagione. Siamo arrivati terzi e mi sembra che quello ha vinto per 6 volte di seguito si stia muovendo come negli anni precedenti, andando a cedere un giocatore e prendendone 2 o 3 forti, quindi la vedo dura col mare di vario. Vabbè, queste parole di Sarri le abbiamo sentite, possiamo mettere quelle dell'anno scorso, di 2 anni fa, tanto tutte uguali. Mente matematica, la parola scudetto nemmeno sotto tortura, ma anche qui niente di nuovo sul fronte occidentale. No, fa il pompiere, sì. Si autogiustifica del fatto che comunque non debba essere la favorita, ma io sono d'accordo sul fatto che non debba essere la favorita, perché c'è una squadra che ha vinto per 6 anni consecutivamente. Però chiedo a Sarri: è più forte di Zielinski, che è un under 23, o Sturaro e Rincón? Dico sì. Per dire, ovviamente. No, ma guarda, il Napoli è lì. Napoli è assolutamente lì. È chiaro che la Juventus rimane la favorita, il Milan è intrigante. A proposito di Milan, Fassone fa così il ritratto dell'attaccante che serve. Non faccio più nomi perché non voglio che nessuno si risenta, guai a parlare dei giocatori che sono di altri club. Noi certamente faremo ancora qualcosa, mancano 40 giorni, sembra che sia già finito il mercato, faremo qualcosa ma con la dovuta calma, la squadra è già molto competitiva così, non abbiamo nessuna fretta di concludere niente. Allora Riccardo, identikit dell'attaccante che serve al Milan, sono rimasti 2 nomi, il casting ha portato a 2 nomi con le stesse caratteristiche e che sono quelle che servono secondo me. Uno abitava a Firenze, l'altro abita e secondo me continuerà ad abitare a Torino, Kalinic e Belotti. Sì, però sono da un certo punto di vista diversi, nel senso che pur facendo entrambi i numeri 9, Belotti lo fa con una maggiore fisicità e un maggior senso del gol, Kalinic lo fa con un maggior senso del gioco, di profondità, di attacco senza palla. Sono 2 giocatori secondo me molto molto diversi, lo sono anche nel prezzo, però, e lo sono forse anche nell'immaginario della gente. Questo senz'altro, nel prezzo e nell'immaginario della gente, eccetera, eccetera. Però alla fine sono 2 prime punte ed è quella la caratteristica che serve al Milan. Poi interpretano il ruolo in maniera differente, però mi sembra chiaro che gli altri nomi che sono stati fatti erano qualcosa di diverso. Magari Aubameyang, puoi dirmi, più forte, sì, ma non è il giocatore che serve al Milan. Al Milan serve il ritratto di quel giocatore. Sicuramente sì, serve il ritratto di quello che fa gol, serve proprio il numero 9 spaccato, il centravanti che non c'è, perché Andre Silva è un centravanti in movimento, perché gli altri sono degli esterni, certo. Perché Borini è uno che si può muovere. Io credo che alla fine l'ideale sarebbe Belotti, ma credo anche che trattare con Cairo sia abbastanza complesso, ma quindi no, magari alla fine arriverà a Cairo. È semplicissimo, guarda, trattare con Cairo è semplicissimo. Vai là, gli dai 100. Vai là, gli dai 100 e non tratti neanche. Si fa così, no? Questo lo sappiamo perfettamente. Però voglio dire, il Milan hanno deciso davvero di svenarsi, ma paradossalmente ti posso dire, poi interrogo anche gli ascoltatori, 800 24 00 24, che possono anche vederci con la webcam sulla pagina Facebook di Radio 24, su quella di tutti i convocati. Vale la pena alla fine di svenarsi per Belotti? Poi non sappiamo quanti soldi hanno voglia di spendere questi qui. Secondo me anche con Kalinic è comunque un Milan perfetto, anche perché ha tanti giocatori bravi ad inserirsi. Sicuramente, quindi, anzi Kalinic forse può dare una mano da questo punto di vista per farli inserire ancora di più. È chiaro che Belotti ti garantirebbe quei 25, secondo me, gol che potrebbero portare il Milan da squadra da Champions. Attenzione, Ricky, perché io attendo sempre conferme, perché fortissimo, ci piace da morire come ragazzo, come giocatore, però ha fatto una grandissima stagione. Attendiamo conferme prima di cacciare anche quei 100. È verissimo, infatti non credo che ne daranno mai 100, però io mani e piedi li scommetterei sul fatto che Belotti per carità, ma sia in chiave azzurra che in chiave granata, che in chiave quello che vuoi, anche dal punto di vista del giocatore, che è un ragazzo meraviglioso. Però vediamo. Grazie Riccardo Revisani. Dimmi. Con Kalinic compri anche un centrocampista, magari con Belotti compri solo Belotti, quindi forse può avere un'utilità maggiore prendere Kalinic, perché ne prendi due e non uno. È chiaro che il Milan è già perfettamente attrezzato, un altro centrocampista male non farebbe, poi dovranno anche sfoltire un po' la rosa. Qualcuno perché sennò non bastano le stanze a Milanello. Ciao Riccardo, grazie. Un saluto a voi. Ciao, un abbraccio. Ciao. 800240024, ci fermiamo adesso per il traffico e poi, prima di approfondire questi argomenti calcistici anche con voi, mi farebbe molto piacere, dopo il traffico però pagina gialla, come il tour, come la maglia gialla del Tour de France. Convocati. Dimentica i compromessi. Scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta. Tutti convocati. Fabio Aru può andarsi a prendere gli abbuoni e la vittoria d'etappa. Vai Fabio! Un Fabio Aru vincitore della Vuelta. Fabio Aru che porta il tricolore alla Plage de Belleville, dove ci sono le belle ragazze, c'è la bandiera italiana e Fabio Aru spinge e Richie Port che vuole l'abbuono e Chris Froome che non demorde. Finale spettacolare. Daniel Martin ancora che insiste, ma vieni via, abbottonati e andiamo a piangere Fabietto Aru. Vince il campione italiano Fabio Aru. Considerando com'è andata l'ultima settimana, non posso che essere soddisfatto. Sinceramente pensavo veramente peggio in questi giorni. Logicamente, sai, quando sei davanti sogni sempre in grande, ma io farei una considerazione un po' più ampia, che in base ai mesi che sono stati ho sempre lottato, insomma, davanti con i migliori, e quindi sicuramente ho fatto un grosso passo in avanti rispetto a quello che è stato il tour dell'anno scorso e via. E via. Ci ha fatto. Allora, siamo partiti per questo Tour de France. Ci ha portati Pieragusa Stagi, che è in linea con noi. E c'è anche, lo saluto e lo ringrazio subito, il CT Davide Cassani. Pieragusa Stagi ci ha portato al Tour de France senza grandi aspettative, in tono un po' dimesso. Ma sì, però questa corsa, ma speriamo nella danza della pioggia, nelle strade bagnate, magari artificialmente, come voleva fare Eccleston. In fondo, invece, è stato un tour bellissimo. Vero Pier? Voto al tour. Beh, bellissimo mi sembra eccessivo. No, che disfattista sei, mamma mia. È andata come temevo. Ho capito. È andata come Pier, temevo. Però, che una squadra troppo forte, troppo organizzata, sì, ha imbrigliato in maniera eccezionale. Una cosa che sotto l'aspetto tecnico, bisogna dire, solo bravi, quindi come dicono i francesi, chapeau. Sono andati veramente molto forte, e secondo me la considero la media più alta di sempre, quasi 41 all'ora, perché in realtà il record è quello del 2005, un tour di Lance Armstrong, ma è stato cancellato, la media, quindi vuol dire tanto, perché loro hanno pensato molto semplicemente: abbiamo l'uomo, uno dei più tra i cacciatori della maglia gialla, il più forte a cronometro è Chris Froome. Sì, certo, ma poi nella crono ci pensa lui, in salita è difficilmente staccabile, ci pensa la squadra e quella media è figlia e quella media è figlia di una squadra pazzesca. Davide Cassani, condividi il pensiero di Stagi o ti sembra limitativo parlare di un tour scontato perché l'ha vinto il favorito? Condivido perché il Team Sky è una squadra fortissima. Guarda caso, no? Una delle tappe più belle, qual è stata? A parte la vittoria di Aru, ma quella è una questione personale di noi italiani, tra l'altro l'unica prestazione di un corridore di classifica che è riuscito a staccare tutti gli altri in salita, no? E quindi secondo me è stata l'azione più bella di questo tour. La tappa, una delle più belle, purtroppo per noi, è stata quella di Fabio Aru in maglia gialla. Non avendo squadra, c'è stata una gran bagarre, ha attaccato Landa, hanno attaccato tanti altri, e proprio perché la Sky non aveva la maglia, quindi non doveva controllare la corsa, abbiamo visto una delle tappe più belle. Perché altrimenti con una squadra del genere dove vai? Che ci sono almeno tre corridori. Parte, ma infatti hai visto gli altri facevano i pirati attaccandosi con i presenti i rampini delle navi. Quelli, no, tra l'altro io condivido il giudizio di Pier Augusto, perché alla fine i primi tre della classifica generale praticamente sono sempre arrivati insieme, pochi secondi di distacco negli arrivi in salita, perché la mega differenza tra i tre sono stati 22 secondi a Pier Augusto quando Froome si è staccato a 320 metri dal traguardo. Senti Pier Augusto, invece trovami un punto su cui puoi non essere d'accordo con il CT, su cui secondo te il CT non è d'accordo. Lui sì, credo che sì, in realtà lui conosco il suo pensiero perché ha fatto una provocazione e a livello di suggestione è divertente ed è un dibattito, non so fino a che punto ne è convinto. Cioè lui dice, visto che le cronometro, anche se quest'anno al Tour de France c'è stato il minimo storico, no? Proprio 36 chilometri, pochissimi, eppure senza presunzione mi sono permesso di scrivere il primo di luglio che 36 chilometri avrebbero inciso di più di tutte le salite di questo tour, proprio perché se andava come doveva andare la Sky avrebbe fatto quel tipo di corsa, e ahimè devo dire, purtroppo io speravo di essere smentito, invece ci ho visto giusto e abbiamo assistito a un tour che se lo guardi in televisione e lo guardi semplicemente da tifoso non è che applauditi, è un po' da tagliare. Detto questo, il CT dice bene, proviamo a rivedere alcune cose, il ciclismo è in evoluzione, aboliamo le cronometri. No. Ecco, io lì non sono d'accordo, io sono un atleta che deve vincere, che vince, ambisce a vincere un grande giro, deve essere forte su tutti i terreni, sono d'accordissimo, pioggia, neve, discesa, cronometro, perfettamente salita. D'accordo, cioè devi essere un atleta di resistenza. Certo, lui lo dice con provocazione, probabilmente io non sono d'accordo con lui, Davide, su questo non siamo d'accordo. Davide, abolire le cronometro, il cronometro sono è come dire aboliamo i calci di rigore. Io non ci sto perché è un esercizio tecnico la cronometro, anzi a me piace da morire anche la cronometro a squadre. Io sono d'accordissimo con Pier Augusto. La mia è ovviamente una provocazione, però dato che tutte le cose cambiano, no? Sono arrivate le Alpi al Tour de France perché altrimenti il Tour rischiava di morire, perché nei primi anni la pianura era decisiva e poi ha detto cosa ci inventiamo? Ci inventiamo le montagne per creare spettacolo. Non dimentichiamoci che le corse saranno sempre più importanti, il ciclismo sarà sempre più seguito se sarà interessante da vedere, no? E quindi dal momento che in questi anni la salita fa sempre meno differenze perché con i rapporti vai dappertutto, perché la preparazione dei corridori è talmente elevata che ai 20 all'ora è difficile staccare i corridori che vanno 2-3% o meno quindi dico, ma perché, dato che nel ciclismo ci sono stati tanti cambiamenti, no, possiamo anche prendere eventualmente in esame la cosa di dire ok, proviamo a vedere cosa succede eliminando il cronometro. Dal momento che è l'unico appunto l'unica tappa, l'unica specialità dove ci sono grandi differenze. Sì, però, no. Però sai Davide, e la giro a Piero Augusto per un ultimo round di opinioni, ci sono corridori che per poter vincere grandi giri, mi viene in mente Nibali, ma è soltanto un esempio, si sono dovuti completare e diventare comunque competitivi a cronometro. Secondo me è una fonte anche di miglioramento dei corridori, no Piero Augusto? Assolutamente, hai citato l'atleta simbolo del nostro movimento, perché nonostante abbia 32 anni e chiaramente sta iniziando una fase discendente, no, della sua carriera, anche se spero che il suo planare sia lento e leggero, quindi che riesca ancora a regalarci qualcosa di bello, a cominciare dalla prossima Vuelta che partirà il 19 di agosto. Vincenzo è esattamente il prototipo dell'atleta che non eccelle in nulla, cioè non è lo scalatore più forte, non è, sì, forse è uno dei discesisti più forti, sì, però non è il più forte in assoluto. È un ottimo cronometro, ma non è il più forte, perché ci sono tanti corridori più forti di lui. È uno che se arriva in un gruppettino ha anche uno spunto veloce, non è totalmente fermo. Cioè, è una, e poi ha una resistenza, un diesel, perché addirittura se lui li mette, quindi, la quarta settimana. Quindi, che vuole, che vuole di più un CT? È un Gino Bartali, no? In quanto a tenuta, in quanto a tenuta è Gino Bartali. Sì, sì, sì. Che vuoi di più, Citi Cassani? Cioè, la completezza del corridore. Ma ho capito, ragione, ma però la completezza del corridore, se noi andiamo a un Tour de France e sappiamo prima chi vince, che spettacolo, sai, è? Sai, sappiamo chi vince. Se questo ha una squadra pazzesca, ma è quello che ti sto dicendo. Però, abbiamo avuto equilibrio, di... no? Equilibrio, ma sapevamo prima chi vinceva. Sì, anche nel calcio dicendo un po' così, eh. Sappiamo che già chi vince da qualche anno, però siamo lì comunque a sperare in qualcosa di diverso. Io comunque, insomma, posso dirti, non sono ovviamente alla vostra altezza né in grado di leggere i dettagli come fate voi, no, ma, della corsa. Io mi sono divertito. Perché al di là di Aru mi sono divertito anche nel vedere chi provava a rubare il tempo a quella macchina pazzesca che è la Sky. No. Io mi sono divertito soprattutto nelle prime due settimane nel seguire Fabio Aru. Poi mi sono divertito un po' meno, perché alla fine, appunto, stavo lì davanti alla televisione. Per aspettare gli ultimi 2,5 km, certo, che erano belli, per l'amor di Dio, no? E quindi non sto qui a criticare chissà cosa, però si fa per parlare e secondo me è utile anche in certe situazioni capire dove andiamo a finire e soprattutto cosa si potrebbe fare per rendere una grande corsa a tappe ancora più bella, tutto qua. Certamente. Grazie ragazzi, grazie per Augusto Staggi e grazie a Davide Cassani CT. Ciao, grazie, alla prossima. A te, Carlo, un abbraccio. Abbraccio forte. Ciao, ci fermiamo adesso per la borsa. E poi, per analogia di argomento, prima abbiamo detto, ok, sapevamo già questo tour chi lo vinceva. E l'ha vinto il solito noto che ieri ha pianto sui campi Elisi, oggi si dice finalmente umano. Vabbè, ste cose interessano fino a un certo punto. Io vado parallelo col calcio. Ragazzi, qui sono 6 anni che abbiamo la corona è appoggiata sulla stessa testa. Proviamo a fare un salto a Napoli per vedere cosa ne pensano i napoletani e i tifosi del Napoli di quelle parole di Sarri e dove pensano di poter essere ai nastri di partenza del campionato. Lo facciamo tra poco. Tutti convocati. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Prima o poi dobbiamo vincere lo scudetto. È meglio che sia prima che poi. Quindi dobbiamo fare tutti quanti lo sforzo, i tifosi, il presidente, la squadra, l'allenatore, i media che ci supportano e ci sopportano, a farci vincere questo benedetto scudetto. È un sogno che, come ce l'ho io, il mister, i miei compagni, ce l'avete anche voi. Noi quest'anno cercheremo di ripartire dopo che abbiamo finito l'ultimo campionato, che abbiamo dato il massimo nelle ultime partite e abbiamo lanciato grandi basi per partire quest'anno alla grande. Loro sempre sono vicini a noi, loro vogliono le scudette ogni anno e noi ci stiamo preparando per quello. Io ho la mente e ragiono a maniera matematica. Se noi siamo arrivati terzi l'anno scorso e ci sono due squadre che stanno facendo un mercato importantissimo, non vedo perché favoriti dobbiamo essere noi. Mi sembra un'enorme cazzata. Di gente ci tira a mezzo, con la stampa napoletana, e ci cade dentro fino a piedi. Mi sembra abbastanza evidente e io non ci voglio cadere dentro. Siamo arrivati dietro a due squadre e non abbiamo fatto un mercato che ha stravolto la squadra, quindi se tutto va bene siamo gli stessi dell'anno scorso a livello di forza e quindi abbiamo due squadre davanti. Bravi ragazzi, grande montaggio con questo con Sarri che prende la l'idrante. Ma sì, ma anche questo è un film già visto, Boris Sollazzo, come quello di Cassano. Basta Peter Pan. Ma penso. un furbacchione, nel senso che poi a me la parte della conferenza stampa che mi fa più sorridere. Senti, che è un furbacchione. Aspetta, prima di Sarri e poi ci andiamo. Cassano invece cos'è? Adesso si dice che vada al Genoa. Cassano per me Cassano è un'anima pura, nel senso che poi ci ha provato, non ce l'ha fatta, sta tutta in quel crudelissimo video amatoriale in cui lui fa mezzo giro di campo e poi non ce la fa più. Cioè lui voleva solo dimostrare a se stesso che non c'ha qualcuno fatto. In Serie A ancora lo amava e poi l'indolenza di tutta una carriera ha trovato il suo trionfo, insomma. In qualche modo è la dimostrazione che lui riesce a fare l'impossibile anche in negativo. Sì. Però insomma non me la prenderei con Cassano, ci ha fatto divertire molto più di altri che magari sono più politicamente corretti, sono più equilibrati, ma sono stati terribilmente noiosi. Questo non lo discuto, però è una storia anche questa che è terribilmente noiosa. Poi se adesso lui dice non voglio smettere col calcio, smetto col Verona, poi chissà poi perché. Se adesso dovesse davvero andare al Genoa, allora la figuraccia sarebbe di quelle epocali. Ma torniamo al tuo Napoli, 800240024. Voi tifosi, che ne pensate di questo gioco di ruolo? Ma come ho detto, insomma, lui è un furbacchione perché quando dice che Juve, Roma e Milan si sono rafforzate, allora avrebbe dovuto dire anche l'anno scorso che il Napoli si era rafforzato, perché è vero, aveva perso i Higuain, ma in termini numerici ne aveva arrivati molti più giocatori. Quindi se la Roma vende due titolari e un giocatore comunque su cui si conta parecchio, e poi sì, e la Juventus lo stesso vende due titolari e compra altri giocatori, e allora se si era rafforzato il Napoli, si sono rafforzati loro, si era rafforzato il Napoli l'anno scorso, e invece l'anno scorso erano le squadre che avevano confermato quelle che si erano rafforzate. Poi per carità, Sarri è un gioco di ruolo. Da una parte c'è De Laurentiis che sa che il Napoli non è da scudetto e dice che è da scudetto. Ma perché Boris? Ma perché non è da scudetto? Perché? Ma non esiste al mondo. Adesso a noi ci piace pensare che la Juventus non vincerà il settimo scudetto, ma la Juventus rimane una squadra che è a livello di valori assoluti, anche senza Bonucci, una squadra molto più forte. Ma non è vero, ma non sono d'accordo, amico mio. Non sono d'accordo. Secondo me il Napoli è molto più forte dell'anno scorso, ma per conservazione. Ragazzi, da noi sono arrivati Mario Rui e un As che sarà sicuramente fortissimo, dall'altra parte da Douglas Costa e Bernardeschi, solo per dirne due. No, mi arrendo. Mi sembra un falso storico. Io non mi nascondo, non ti dico che ci sono tante squadre davanti al Napoli, ma che la Juventus attualmente, al netto di motivazioni che possono o non possono esserci, di uno spogliatoio spaccato o non, sì, è davanti al Napoli. Sì. Questa cosa per cui si dà lo scudetto sicuro al Napoli una follia. Allora, c'è una via di mezzo però, Boris. Scudetto sicuro? No. Favorito? No. Che sia competitivo e possa competere con la Juventus, secondo me sì, tutta la vita. E poi aggiungo, non so come la pensi tu, ma ti dico, il Napoli più forte per conservazione, il grande mercato del Napoli, secondo me è un grande mercato, devi tenere comunque i giocatori, di difendere i giocatori, sborsando un sacco di quattrini di ingaggi, come sai benissimo. Adesso Sarri si trova per le mani comunque una rosa che l'anno scorso non conosceva e faceva fatica a conoscere, ci ha messo un po' di tempo, adesso la conosce come le dita della sua mano. No, e ti dico di più, ci sono due giocatori come Maximovic e Milik che peggio dell'anno scorso non potranno fare, uno perché non ha mai giocato e l'altro perché aveva avuto un problema a un piede, giocava a tre, quindi io sono d'accordissimo con te che il Napoli si è rafforzato mantenendo i giocatori che c'erano. Sono d'accordissimo con chi dice che il Napoli è la prima rivale della Juventus, non sono affatto d'accordo né con i giocatori né con il presidente che fa il suo gioco, perché da quando dice ci giochiamo lo scudetto, la retorica secondo me dovrebbe essere quella del sogno, come l'Atletico Madrid quando vinse lo scudetto, cioè non dico che è impossibile, ma in questo momento tu sei solo, tra virgolette, lo sfidante. Il problema è che se il tuo presidente e i tuoi giocatori dicono vinceremo lo scudetto, stiamo lavorando per vincere lo scudetto, tu che cosa devi fare? Inevitabilmente dire che non è così, e poi, visto che il tuo presidente fa una fuga in avanti, fare una fuga all'indietro e dire comprami qualcun altro se vuoi lo scudetto, e non ha tutti i torti, cioè voglio dire, un grande campione di carattere il Napoli lo dovrebbe comprare per giocarsi davvero lo scudetto. Fammi un nome. Ma guarda, io 2 mesi fa dicevo Iniesta quando sembrava che dovesse andarsene. Ma può essere anche il Matuidi della situazione, può essere anche, cioè non è neanche importante il ruolo, è importante che ci sia un giocatore che insegna agli altri a vincere, che mostri la strada. Per esempio, se Bonucci veramente se ne andava via a 40 milioni, forse l'ideale sarebbe stato proprio Bonucci, che secondo me a Napoli avrebbe potuto fare di più che di quello che potrebbe fare a Milano. Qualcuno che ti sappia dire dove si va, sostanzialmente. E poi magari uno Zappacosta non mi sarebbe dispiaciuto. Come la vedi tu? Mi sembra che comunque i pensieri siano solo sfumature, no? Cioè il presidente non dice, Laurentiis non dice andiamo a vincere lo scudetto, dice siamo competitivi per lo scudetto. Tu più o meno dici la stessa cosa, Sarri ne dice un'altra ed è un gioco di ruoli. Mi sembra che non ci siano grandi differenze di vedute, magari qualche ascoltatore la pensa in modo diverso. 8-0-0-24-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 se vogliamo giocarcela bisogna confermare tutti. Quindi lui stesso a suo tempo disse che per provare a vincere lo scudetto bastava confermare tutti. È ovvio che adesso che tutti gli danno la responsabilità, un po' di giornali cercano anche di fare pressione. No, ma non vedo questi, non vedo questo problema. Io non lo vedo, cioè, e penso che Sarri non lo senta. Boris, ti ringrazio, ci sentiamo presto, Ci sentiamo presto, professor dottor presidente Gran Loopman di Mille Film Festival. Grazie a Boris Sollazzo. Io vado da un ascoltatore 800 24 00 24, ovviamente tema e schema libero per tutti. Cristiano, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, mi chiamo Carlo, nei confronti di quegli allenatori sui quali si parla sempre dopo che le cose sono successe. Sì. Garcia ha giocato con mezza squadra rispetto a Spalletti, però era un brocco. Sarri insieme a Benitez ha sempre dichiarato che Mertens doveva fare un tempo perché rendeva di più, perché correndo tanto prendeva in giro le difese. Sì. Ma queste cose perché non le diciamo? Perché non le diciamo chiaramente? Parliamo soltanto che Sarri fa un passino indietro perché fa il politico, giustamente fa la sua parte. Se poi Napoli arriva quarto quest'anno invece che primo, lui l'aveva già detto oggi. Aspetti, se arriva quarto è un fiasco, Cioè, adesso vediamo quali sono le distanze. Secondo me Sarri ha un grande difetto. Lei ha ragione da vendere, Lei ha ragione da vendere. L'intuizione e il coraggio di rischiare non sono esattamente la sua caratteristica principale. È proprio per quello che le dico che quest'anno il Napoli è rafforzato per conservazione. Perché? Perché Sarri quei giocatori da Rogge in su che l'anno scorso, cioè, bisognava tirarli fuori dalla panchina con la polizia, quest'anno li conosce e sa perfettamente quello che gli possono dare. Questo è un suo grande limite, questo è un suo grande limite, ma l'abbiamo detto un sacco di volte. Da Napoli c'è Luigi invece, buongiorno. No, c'è non c'è Luigi, ma dopo lo prendiamo. Da Pistoia c'è Alessandro, io spero. Sì, eccomi. Eccolo. Dica. Buonasera, salve. Buongiorno. Io volevo fare una considerazione a proposito della 10 Bernardeschi, la probabile 10. Sì. Io penso sarebbe più sensato, a parte la Juve, dare la 10 a Dybala. C'è una certa gerarchia, secondo me, anche come avevano fatto con Pogba. È sì. probabile prima della Supercoppa, io mi aspetto, ecco, che la 10 venga proposta a Dybala prima che a Bernardeschi. Ma secondo lei a Dybala frega qualcosa oppure ne fa anche a meno? Ah, secondo me, insomma, gli interessa, perché comunque la 10 della Juve è importante, a un certo peso. Io dico, se gli interessa, sono d'accordo anche qui, cioè nel senso che Dybala è simbolo della Juventus, è un 10, quella maglia potrebbe fargli bene se la vuole, giustamente, certo, è giusto, sì, giusto che abbia diritto di priorità. Poi c'è anche quell'altro discorsetto del Barcellona, lei lo sa, no? Sì, certo, perché lo so. Se Neymar dovesse andarsene, dica, racconti lei, ricordi lei, appunto, dovesse andarsene, il Barcellona viverebbe decisamente su Dybala. Sì. A quel punto, se fanno un'offerta monster, è difficile. E attenzione, che c'è una clausoletta nel contratto, c'è scritto una cosina nel contratto di Dybala, per cui, potrebbe pure, insomma, liberare, non dico, è chiaro che la Juventus verrebbe coperta di denaro. Allora, ci fermiamo per il traffico, ragazzi. Traffico, e torniamo con Luigi da Napoli, che stavolta stia lì, non si muova, non faccia il pardo, perché sennò cade la linea di nuovo. Luigi da Napoli, poi Augusto, e poi chi vuole intervenire, mi fa solo piacere, 800240024, e poi andiamo da un grande giocatore di tennis. Ragazzi, state con noi. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... In ascolto in Piemonte sulla tangenziale sud di Torino. Un incidente provoca incolonnamenti tra Debuscè e Statale 20 in direzione Piacenza. E sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia, al confine tra Lombardia ed Emilia, code per lavori tra Cremona e Castelvetro verso Torino. Sul tratto milanese della A4 si è appena verificato un tamponamento, segnaliamo code tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino. Traffico molto intenso sulla A22 del Brennero e rallentamenti con code da Bolzano fino a Rovereto verso Modena. Nel nord-est sta piovendo in modo intenso su diversi tratti autostradali, segnaliamo rallentamenti sulla A4 Milano-Venezia tra Vicenza e Padova e sulla A31 della Val d'Astico tra Vicenza Nord e Albettone. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole per un cantiere in colonnamenti tra Terre di Canossa e Parma verso Milano. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, ma restiamo in Emilia. Un veicolo in avaria provoca code tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Infine andiamo al sud, a Napoli, a causa di un cantiere, code sul raccordo autostradale con la 3 tra via Galileo Ferraris e innesto a 3 in uscita dalla città. Ed è tutto, Strada in Diretta torna tra un'ora circa. Convocati. Sono stato preso a scudisciate da Giorgio De Luca, il mio pregiatissimo autore, che mi ha detto: non c'è nessuna clausola nel contratto di Dybala, è solo un gentleman agreement, per cui, almeno così fa sapere la Juventus, gentleman agreement, per cui sono messi d'accordo, hanno preso questo accordo secondo cui se si avvicina a Barcellona la Juventus lascia fare. Io qualche dubbio me lo tengo, perché gentleman agreement va bene, però magari non scritto nel contratto, magari in una scrittura privata, magari un tovagliolo del ristorante, però sulla parola secondo me c'è poco da... insomma, non si può certamente fare affidamento. Luigi, eccomi, grazie, non mi tradisca, ma grazie a lei, dica. No, è stato il Bluetooth, io non riuscivo a togliere, è un problema. Sono vecchietto, quindi insomma. Ma che vecchietto? Sento la voce, non è per nulla vecchietto. Non dica sciocchezze. Dica. Niente, no, volevo venire per il Napoli, dato che sono. Non vivo più a Napoli, ma insomma tifosissimo del Napoli. Sì. Che a me piace come gioca, perché ecco, mi diverto, ecco, vedere Napoli, a me il Napoli fa piacere. Comunque, per l'intervista di Sarri, io sono d'accordo con Sarri, perché secondo me è troppa euforia. È vero che io sono d'accordo anche con lei. Che la squadra insomma quest'anno può competere, non è che vinca, può competere, però Sarri giustamente ha detto lo scudetto non ce l'abbiamo ancora sulla maglietta, quindi dobbiamo lottare. E io poi ho visto l'amichevole col Carpi e ho notato gli stessi errori dell'anno scorso, cioè Koulibaly che fa la solita stupidaggine, Reina che non è preparato, e io su quello, su Reina, ho i miei dubbi, perché prenderei un portiere un pochettino più affidabile. E per me, a me va bene, cioè, la cosa mi piace, sì, ma Luigi, io ho l'impressione che stiamo parlando veramente di acqua calda, di acqua fresca, stiamo parlando del nulla, perché amichevoli non contano, non contano, sono un fuochi d'artificio. Poi per il resto, insomma, anche quelle parole io non starei a pesarle più di tanto. Cioè, possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che il Napoli è il primo sfidante della Juventus, e che la distanza si è, secondo me, ridotta per le ragioni che ho già detto prima. Non mi va di ripetere, perché sempre lo stesso pensiero esprimo. Augusto, eccomi. Eccolo. Buongiorno. Allora, che piacere. Penso che anche per me sono d'accordo con lei per il discorso che riguarda la situazione del Milan attuale, quello che ha espresso poco fa. Però mi viene un dubbio enorme, ovvero abbiamo un giocatore che si chiama Suso, un altro che si chiama Bacca. Bacca ha fatto 13 gol, Kalinic ne ha fatti 15. Dov'è la differenza? Gliela spiego subito. 25 milioni. Spiego subito, non è questione di gol, di quello che ne ha fatti due in più rispetto a questo, è una questione eminentemente di caratteristiche. Cioè, il Milan non ha bisogno di Bacca, tanto che sta provando a piazzarlo qua e là, ma senza grandi risultati. Il Milan ha invece bisogno, ma ne aveva bisogno anche l'anno scorso, per le caratteristiche di gioco che fa. Aveva bisogno di un attaccante con una diversa propensione, con un diverso modo di lavorare sul campo, proprio per la chimica del gioco di Montella. Quindi non è una questione di valore assoluto, e nemmeno di numeri, e nemmeno di gol. A parte il fatto che Bacca l'anno scorso ha fatto un campionato molto molto deludente, su questo possiamo essere tutti d'accordo. È un eccellente giocatore, ma probabilmente in un'altra squadra, nel Milan, è un giocatore che a mio parere serve pochino o quasi nulla, mentre quell'altro è un giocatore, quello che stanno cercando, è un giocatore che servirebbe assai. Leonardo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Sì, allora, volevo avere qualche notizia sull'Inter, perché qui dell'Inter non se ne parla mai. Quando ce n'è, diciamo, parliamo volentieri dell'Inter. Se vuoi lo facciamo pure dopo, ma parliamo di tutto. Notizie sull'Inter non è che ce ne siano poi tante. Lei che ne pensa dell'Inter? Qual è il suo pensiero? Il mio pensiero dell'Inter è che deve per forza fare dei cambiamenti, che non può rimanere così come ha chiuso il campionato, perché è inguardabile. Una squadra che ha perso di tutto, ha perso nella voglia di credere nel gioco. Leonardo, mi perdoni, hanno perso la faccia ai giocatori, secondo me, l'ho detto mille volte. Si sono comportati in maniera, posso dire, poco professionale, ma mi vengono anche altre parolacce molto più dure, altre espressioni molto più d'accordo. Ecco, e io non credo che il valore di quei giocatori sia quello dell'anno scorso. Loro, Codardi e Conegli, come tutti i giocatori di pallone, non me la vengono a raccontare. Nel momento stesso in cui è uscita una vocina e Conte e Pioli e forse viene e forse va, ovviamente la società non si è guardata bene dal fare chiarezza, e da lì tutti giù dalla barca come topi. Ecco che è arrivato uno dei miei tennisti preferiti, che entra nella classifica ATP, ma soprattutto va a disputare, si prepara a disputare un torneo internazionale. Si chiama Stefano Melocaro. No, vabbè, allora ciao Carlo. Mettiamo i puntini sugli i, operiamo i dovuti distinguo. Cioè, intanto in classifica ATP si entra soltanto se vinci una partita, ipotesi nel mio caso alquanto remoto. Come on! Ma no, è stata questa cosa. Io sono amico dell'organizzatore del torneo del Challenger di Cortina. Sì. E sarei andato comunque a trovarli, perché sono persone molto simpatiche, perché il posto, diciamo, abbiamo visitato posti più brutti. Beh. E dunque tre giorni lì andava la pena di se fare. Lui mi ha detto: senti, ma io ti voglio dare una wild card per il doppio. Ma grande! Detto, sai che c'è? Io ho detto, sai che c'è, io la accetto, che potrà succedere? Al massimo prenderò qualche pallettata sul naso e va bene, curerò. Perché? Sei con Giannessi, che è un eccellente tennista, numero 84 del mondo. Best ranking, numero 84 del mondo. Ma secondo me tu sei bravo, sei allenato, sei in grandi condizioni. Mercoledì avrai già studiato gli avversari, no? Allora, sì, no, gli avversari io ho pensato di fare questa tattica, cioè nello spogliatoio. Io dico, ragazzi, allora uno e due venite qua, perché sono due ragazzi che hanno 20 anni. Dico, ragazzi, allora guardatemi bene, sapete che lavoro faccio, vero? Io faccio giornalista di tennis su Sky. Dico, allora, o mi fate prendere la palla, cioè mi tirate piano e sul dritto, oppure io metto in giro voci che, uno, vi vendete le partite, due, vi dopate, bravo, tre, avete probabilmente una relazione tra di voi. Posso dire una cosa? T'aiuto, sì, anch'io, fammi sapere. Se no, non prendete a pallonate. Io voglio che Melocaro vinca, ragazzi, quindi... questo francamente, guarda, non mi sento di assicurarlo. Bertolotti e Vacanzi, uomini avvertiti. Bertolotti e Vavassori. Vavassori, peraltro, dovrebbe essere il figlio di un mio caro amico, grande, ma è grande coach di tennis. Perciò sì, parlerò con il papà e mi farò raccomandare. Sì, no, ma comunque, prontissimi a infamarli con ogni mezzo, con Radio 24 compresa, Radio 24, sì, Sky. Sì, no, scateniamo qui ci vuole, Carlo, una lobby mediatica. Ma assolutamente, dichiarata, Stefano. Sì, sì, assolutamente. Dichiarata. Sì, ma io, a me sembra, guarda, mi sembra di averli visti in giro con dei personaggi loschi. Lo vedi. Con la tattica può essere solo questa. Sì, no, ma mi sembra, anzi, sono quasi certo di averli visti in giro tutte e due con dei personaggi loschi dubbia sessualità. Sì, e moralità. Sì. No, lasciamo stare la moralità, ma proprio personaggi poco raccomandabili di notte. A fare roba strana. Preparatevi, ragazzi. Bertolotti e Vavassori. Io gioco mercoledì questa partita. Io sono pronto. Sentiamoci nei giorni successivi e io ti documento com'è andata. Cerchiamo di capire se sono riuscito a fare un 15, che già sarebbe una gran cosa. Senti, ma come ti sei allenato? Come al solito, ma sei allenatissimo. Dunque, allora, vengo da Wimbledon, dove praticamente sono stato fermo per 20 giorni, però io non ho mai giocato a tennis, però ho visto giocare dal vivo Federer, dunque ho capito tutto, ho fatto delle riflessioni molto profonde e io baso tutto su questa mia visione. Cioè, l'ho visto e l'ho anche toccato, perché quando l'ho intervistato mi ha stretto la mano. E allora c'hai la mano benedetta. Baso tutto su quello. Hai la marina benedetta, esatto. Non sarai ovviamente lavato. Stefano, no, ci sentiamo, dunque, giochi mercoledì, gioco forza, ci sentiamo giovedì, per commentare il passaggio del turno e i prossimi avversari, che pure siamo pronti a devastare, esatto, dal punto di vista mediatico. Va bene, okay, sarà fatto, d'accordo. Baci, grazie, baci, abbracci, ciao. E in bocca, grazie, al lupo a Stefano Melocaro. Ciao. Allora, adesso ci fermiamo per il GR, poi però torniamo approfondendo altri discorsi. Ovviamente sempre con vostro aiuto, 800240024, perché, vabbè, io sono curioso di capire che aria tira alla Bobo Vieri Cup, al chat ce lo racconterà, rimanendo in tema di così bella vita, ma approfondiremo, torneremo sul tema Bonucci, eccetera, state con noi. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer. Devo stare seduto in panchina a guardare. O puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai nostri posti. E andiamo. Convocati. Buona compagnia, Alessandro. Oddio, buona lo dici tu, diciamo in compagnia, poi se è buona, dopo qualche giorno ve lo dirò, ci sopportiamo da un po' di giorni ormai, no? Sì, devo dire che non sei male, dai, sei sopportabile. Grazie. Una volta mi insultava quando giocava, deve essere... io non capisco, la Juve che è già la più forte di tutti, ha preso Douglas Costa, che è la più forte di tutti, ha preso uno dei migliori giovani in Italia e in Europa, ma le altre squadre cosa che fanno? vorrei sapere come la Juve è già forte e compra i migliori giovani che ci sono in Europa. Io vorrei sapere questo. Le altre squadre cosa fanno loro? Non riesco a capire io. Invece che piede ha secondo te Cutrone? Oggi ha segnato 2 gol con la maglia del Milan, è finita 4-0 contro il Bayern Monaco, i tifosi del Milan sono in estasi. Che valore diamo all'amichevole di oggi? La domanda è seria? Molto seria. Zero. Zero, perché? Come spegnere l'entusiasmo? Perché sono tutti in ritiro, tutti in preparazione, sono tutti imballati di lavoro. Va bene, ora ti lascio il microfono, saluta tu, se vuoi fare una domanda ai tuoi amici io mi sposto, per inizia a arrivare acqua, quindi nel caso il gavettone lo lascio a te. Ragazzi, il gavettone no, volevo farvi una domanda. Vi state godendo la vita? Non mi cagano, niente, non mi rispondono nemmeno. Tu sì che ti stai godendo la vita, al chatto. Molto, sì, sì, lo so. Senti, quanto ti diverti? Da 1 a 10? Più o meno 400. 400. C'è un Christian Vieri in forma straordinaria. In forma straordinaria. Com'è la vita lì? No, è bella qui al Fantini Club di Cervia, dove c'è la Bobo Summer Cup. Ma è bella, sai, anche perché? Dimmi. Perché Vieri praticamente racconta tutto con grandissima sincerità, e questo mi piace, perché dice la verità, la sua verità, dice quello che pensa e gli passa per la testa, poi molti magari non sono d'accordo, però mi piace proprio questa sua totale assenza di filtri nelle risposte alle domande calcistiche. Guarda, ti avrà insultato e magari probabilmente c'è anche ragione quando giocava. Sicuramente, ragione. Però io l'ho sempre adorato Vieri, come personaggio. Poi puoi criticare finché vuoi, o potete criticare finché volete, 800240024, perché siamo probabilmente la minoranza, però a me è sempre stato simpatico Bobone. Senti, ma gli altri come li vedi in campo in questo strano sport sulla sabbia? No, ti racconto questo di Lela Dani. Vai. È assolutamente straordinario, no? Cioè, come commentatore, come diciamo collega fra virgolette, però lui sostanzialmente non ha mai giocato a footvolley, ha giocato un'ora con Bobo Vieri. Alla fine cosa ha fatto? Invece andarsi a riposare, ha detto no, adesso io non posso giocare così, devo impararlo totalmente questo sport. Si è messo su un campo laterale e ha giocato per ore a football, perché non vuole fare brutta figura. Insomma, quando si dice che lui è un perfezionista, è un perfezionista, sì, anche, sì, anche in questo. Sì, poi vabbè, sì, ci sono personaggi incredibili, amici di Bobo Vieri, cose che non si possono raccontare. No, dai, una dimmela, dai, no, Ale, dai. Ma no, cose che non si possono raccontare quando dici così, già siamo tutti curiosi. In realtà si possono raccontare. Le serate al Pineta sono memorabili, come dire. I post partita al Pineta sono molto divertenti. Sì. Oppure ieri Pucci, comico molto amico di Bobo Vieri, lo conosce da quando è nato, è arrivato sul campo di football, ha iniziato a fare la telecamera che i papà con i bambini scappavano, perché c'erano troppe parolacce. Diciamo che il clima è molto divertente, ogni tanto bisogna mettere un freno. Però ti ripeto, ieri straordinario anche in questo, ve le fa il padrone di casa, il giocatore di football, l'intrattenitore, il padrone del ristorante dove si vaccina, fa tutto, lo vedo in 1500 ruoli. Infatti ieri gli ho scritto un messaggio, gli ho detto grazie perché mi sto divertendo molto. Divertirsi, no, nel mondo del calcio non è poi sempre così facile. Ieri mi sta facendo divertire tantissimo. Sì, con la buona pace della ben nota signora Alciato, che tutti sapete chi è, che vorrà rapporto dettagliato. Allora ti dico anche questa. Vai. C'è anche lei a Cervia, perché non mi è così, non mi lascia solo e vengo controllato 24 ore su 24. Benissimo. Ti voglio bene, Alciato, e anche alla tua signora, come lei ben sa. Altrettanto. Senti, dimmi invece una cosa. Vieri dice, vabbè, ma l'Aiva ha comprato i giocatori, gli altri non hanno comprato nessuno, che gioco stiamo a fare? Sono tutti di quell'idea lì? Beh, molti sono di questa idea qua, ovviamente poi non è del tutto vero, nel senso che il Milan ha comprato e molto, però ad esempio Vieri, l'avete sentito, ha detto sì, vabbè, il 4-0 vale zero, perché sono amichevoli perfettamente d'accordo. Contano. Io sono d'accordo con lui, cioè il 4-0 in questo caso, ma in generale che i risultati dell'estate lasciano poi il tempo che trovano. E tutti più o meno vedono la Juventus come favorita in campionato per il settimo titolo consecutivo, perché poi è vero che magari la Juventus ha comprato meno, però andiamo a vedere i nomi. Ha comprato Douglas Costa, ha comprato Bernardeschi, che è perfetto per il sistema di gioco di Allegri. Più o meno sono tutti concordi, come sono tutti concordi nel ritenere Luciano Spalletti il grande acquisto dell'Inter, forse perché altri non ha fatti, ma però sono d'accordo che il grande questo. Acquisto da cui ripartire, perché Spalletti certo. Come si fa a contestare? Ma guarda, ne parlavo prima con un ascoltatore e ci siamo trovati d'accordo sul punto secondo il quale i giocatori dell'Inter l'anno scorso hanno fatto una figura da vergognosa, da vergogna, ho altre parole, mi devo controllare. Però non possono essere quei brocchi, quei bidoni, quei senza palle che si sono visti in campo. Sono certamente, no. Hanno certamente un altro valore assoluto. Anche se no, se sono così, sono da prendere la calcio in culo. Sarebbe ingiusto, non so se sei d'accordo, dare anche la colpa agli allenatori che ci sono stati, perché se poi vai a vedere non sono allenatori scarsi, anzi, cioè Pioli, quando era arrivato, aveva dato una carica, aveva dato una scarica, non so come chiamarla. Striscia positiva e poi i giocatori si sono di nuovo risseduti, quindi non può essere colpa sua. Tu li conosci molto meglio di me, li frequenti molto più di me, ne sai molto più di me e sai anche perfettamente che quando è finito l'effetto Pioli, nel momento stesso in cui sono cominciate a circolare voci relative alla mancata conferma di Pioli, la società non ha fatto un plissé, certo, e i topi giù dalla barca, come abbiamo visto mille volte. Quindi io la colpa non la do a Pioli, la do a una società che nemmeno ha fatto finta di difenderlo. Alessandro, ma racconta sempre Ancelotti, ma certo, tempi, ma così è della Juventus. Sostanzialmente c'erano Moggi, Giraudo, Bettega, Umberto Agnelli, che avevano già deciso di cacciarlo a fine stagione, di mandarlo via. Sapete cosa ha fatto? Gli ha rinnovato a metà stagione il contratto, proprio perché lo spogliatoio doveva credere che Ancelotti sarebbe rimasto anche nelle stagioni successive, ma per non mollare. Ma certo, è una cosa che mi ricorda sempre, dice, in quello sono stati, diciamo, non perfetti, non nei suoi confronti, ma nei confronti dello spogliatoio. Ma assolutamente. Sì, perché nessuno ha mollato Ancelotti. Ma tu sai anche perfettamente che Mourinho era d'accordo con Moratti, ma non è uscita sul fatto che se ne sarebbe andato, ma non è uscita una vocale. E infatti questo... se n'è andato con la coppa sotto braccio. Con la coppa sotto braccio. E non solo quella coppa, con tutte le altre. No. Senti, l'ultima cosa, Affer Bonucci invece, con Bonucci che spara le fiondate. Come lo vedi? Tra poco un tifoso della Juve voglio sentire quanto è incazzato con Bonucci per quello che sta dicendo. Io, guarda, su Bonucci c'è solo una cosa. Il mercato, no, è bello anche per quello, perché ti regala dei colpi assolutamente inaspettati, ma se tu parli con tutti i giocatori dello spogliatoio della Juventus, non c'era uno sapesse. Non è che Bonucci avesse confidato. Chiaro, tutti avevano visto che c'erano dei problemi, che c'erano certi comportamenti, certi rapporti rotti, ma nessuno avrebbe mai pensato a un passaggio di Bonucci, soprattutto al Milan. La cosa che mi lascia molto perplesso in questa storia è la fascia da capitano data a Leonardo Bonucci. Io sono d'accordissimo. Perché? Tu sei d'accordo? Io non tanto perché... È vero che tra Bonucci e Montolivo, per dire, dico Montolivo perché è l'ultimo capitano del Milan, se tu scegli il peso, la classe, è chiaro che la fascia tu la devi dare a Bonucci e non a Montolivo. Però il capitano del Milan è uno che fino al giorno prima contro il Milan, insomma, avrebbe fatto di tutto, perché era una delle bandiere della squadra avversaria. Perfetto. Quindi non sono d'accordo sulla fascia, però è stato un grandissimo colpo. Io invece ti dico, sono d'accordo sulla fascia perché è simbolo di leadership, è quello che il Milan chiede a Bonucci. Il Milan era una squadra totalmente priva di personalità, era cosa che più aveva bisogno in assoluto la personalità. E dai la fascia di capitano, almeno io la vedo così, a quello che, se ne parlavamo prima, conosce la strada e conosce anche i trucchetti. Fa il comitato, vedrai che pilota il comitato che va a parlare con l'arbitro. Sai perfettamente anche questo. Ale, ti ringrazio, ti abbraccio e saluto la signora. Al chat. Va bene. Credo che ricambi, non è... No, io domani... Anzi, dille che domani chiamo lei. Va bene, io ti dico già sì, perché insomma... Ah, vabbè, fantastico. De Luca, prendi nota. Vietate le domande sul Pineta, però. No, ma figurati, faccio il bravo. Ma con lei che sa di calcio più di tutti noi messi insieme, di sport più di tutti noi messi insieme, parlo di sport, ci mancherebbe altro. Senti il naso che mi cresce. Allora le rubo il telefono. Grazie, a domani. Chiamo Vieri e la faccio passare. Te pare. Grazie, Ale. A voi, grazie Alessandro Alciato. Allora, Bonucci, un legame che dopo 7 anni si era affievolito. Siccome per dare il 100% devo sentirmi importante, alla Juventus questa cosa succedeva a fasi alterne ed era una cosa che non ce la facevo più a sopportare, quindi di pari accordo, come già detto, con la società abbiamo deciso di scegliere la via del divorzio. D'altronde anche i più bei matrimoni a volte finiscono. È normale, è un compagno di tutto. Negli ultimi 7 anni ho visto più lui insieme a Gigi, Andrea, di chiunque altro. Famiglia nostra compresa, quindi a livello umano mancherà tanto. Per il resto, insomma, giocatori siamo tanti giocatori importanti, e magari può arrivare un altro difensore che ci permetta di tirare il fiato e gestire al meglio le energie, ma credo che tecnicamente eravamo 5 difensori, siamo 4 difensori di altissimo livello con caratteristiche diverse, e quello sinceramente mi preoccupa meno. Con i compagni ci sono stati momenti in cui magari abbiamo parlato e affrontato delle problematiche. È normale che ognuno di noi ha fatto una propria, con il proprio carattere, ci sono punti di vista diversi, però io ho avuto sempre un grande rapporto con Gigi, con Andrea e Giorgio. Negli ultimi mesi però qualcosa non con loro si era un po' sgretolato. Leonardo ha fatto una scelta comunicandola alla società, la società ne ha preso atto, e quindi tra l'altro è stata una trattativa molto veloce, perché un giorno è stato fatto il trasferimento. Come spesso accade nel calcio, tanti giocatori, allenatori prendano delle decisioni di cambiare perché magari ne sentono la necessità, però credo che non ci siano assolutamente altri motivi. È stata una scelta di Leonardo che la società ha preso in considerazione e l'ha fatta. Ah, è chiaro che con Allegri e quello sgabello di Porto lì si è sgretolato tutto il rapporto tra Bonucci e l'allenatore, la Juventus, eccetera, ma questo appartiene al passato e sappiamo tutti benissimo. Però piuttosto, dottor Massimo Zampini, ciao, quanto le dà fastidio Bonucci che va al Milan e conta le coppe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, signori. No, personalmente nessun fastidio. Eh? Personalmente nessun fastidio. Non ci credo. Riconoscenza, a me darebbe fastidio. Riconoscenza nei confronti di Bonucci, e poi il consiglio che gli do, poi può anche non rovinare tutto non facendo una dichiarazione al giorno, visto che da noi non parlava mai e giustamente faceva il leader in campo. Però ci ho detto, insomma, è stato grande da noi per 7 anni, ha scelto un'altra squadra, parte da una squadra straprestigiosa in un momento, certo, meno. Però io fossi un tifoso della Juventus, a me un po' di fastidio lo darebbe. Cioè, è come dire, ah beh, tanto la... Non sanno come si fa, inutile, sono anche sì, pure però, magari sai, un po' sfigati. A me darebbe un po' fastidio, poi sì, ma... ci sta, eh. No, ma dico, lui ha fatto parte di qualche Juventus per qualche sì, annetto, e qualche finalina, diciamo, è andata malino pure a lui, quindi la prendo come una captatio benevolenza nei confronti dei nuovi tifosi. Cioè, se fosse venuto alla Juve dal Milan, avrebbe detto: non è un caso che una squadra vinca 35 scudetti, sì, il nostro 18. Certo. Cioè, secondo me, io la vedo più che altro di Bonucci, uno grandissimo leader in campo, fuori giustamente vuole ringraziarsi i tifosi, e in questo momento sì, gli conviene. Senti Max, invece prima con Acciato parlavo della scelta, guardiamo in casa degli altri, la scelta di mettere sul braccio di Bonucci a fasci capitano, io sono d'accordo al 100% con questa decisione. Beh, grande leader secondo me in campo, si è dimostrato nella Juve partendo male, il primo anno con una Juve che era poca roba a dir la verità, però poi negli anni è stato un leader, anche senza fascia al braccio è stato un certo, grande leader per me. Certo. Poi, sai, sinceramente arrivare in una squadra prestigiosa come il Milan e pretendere, perché credo che in qualche modo l'abbia anche quasi pretesa, no, la fascia capitano, non so. Magari un atteggiamento non mi fa impazzire, fossi un suo compagno, però sinceramente sarà un grande capitano. Ma scusami, ma chi ha titolo? Non mi dire, vabbè, Montolivo, insomma, non è esattamente il massimo della personalità. Vogliamo darla a ragazzino, cioè, in Porto pure l'estate che abbiamo vissuto. Me ne guarderei bene, e poi sai come funziona la Juventus. Avrà comunque titolo Bonucci per andare a guidare il comitato, no? Quello che va dall'arbitro a parlare, gli fa bene anche la fascia, quindi a potrà parlare pure un po' di più. eh? A dare testate come i nostri tempi. No, dare testate. Cioè, avrà titolo per parlare con la faccia di capitano. Cioè, io non, sì, non ci trovo nulla, nulla di male. No, no, è un ottimo, secondo me è un ottimo capitano. Detto in generale alla Juve, diciamo, io da 40 anni e non credo sia mai capitato che il nuovo arrivato capitano, però capita, cioè, sì, ma il Milan è una situazione che non ha avuto precedenti, esatto. No, è una cosa nuova di zecca, non mi ricordo una cosa del genere. No, un'ultima cosa, senti Massimo, sì. Prima si parlava di un ascoltatore, parlava Bernardeschi, la 10, la 10, eccetera, forse avrebbe più titolo di Dybala, ma che tu sappia, a Dybala gliene importa qualcosa della maniera, guarda, 10? Non ho confidenza in Dybala. L'impressione che ho è che a Dybala non preghi nulla della 10, che sia esatto. Con la 21, che alla Juve, lo ricordo, non in tutte le squadre, ma alla Juve è una maglia che ha un peso da Zidane, Pirlo, eccetera, eccetera. Quindi secondo me Dybala sta bene con la sua 21. Bernardeschi, sì. secondo me, se non ha paura, ci terrebbe, e credo che in società o ci stiano pensando, ci abbiano pensato seriamente, quindi... Ma sì, ma poi è uno che ha la faccia di tolla giusta, Massimo. Poi sì, potrebbe portarla con leggerezza, non è uno che si fa schiacciare. Io mi ricordo la storia di Pogba, te la ricorderai anche tu, lui sì, che non aveva... Però ne è rimasto un po' schiacciato. Comunque, io ho proprio questa sensazione, cioè che a Dybala della DS importi no, a zero. Lui no. Quindi diamola serenamente a chi la vuole indossare, insomma, non è che sì, consci però che anche chi ha la 10 periodo di panchina, cioè la 10 è una maglia prestigiosissima, ma che non dà alcuna garanzia e non deve pesare più di altro. Questo è evidente, non deve pesare, non dà nessuna garanzia. Non è la maglia della Juve che pesa, non è il numero. Bravissima, la maglia della Juventus che pesa. E sul distacco con le altre, prima abbiamo parlato un po' di Napoli e di chi parla di scudetto a partita presidente, chi prende l'idrante, innaffia ogni bollore. Tu come, dimmi anche qui, sii onesto, come la vedi? Ma sai che io sono prudente in generale, però io le vedo il Napoli forte, sul serio. Sì. Almeno abbiamo tutti gli occhi in Napoli finale l'anno scorso, gli ultimi 2-3 mesi era molto bello. Sì. Quindi se è quello con continuità per tutto l'anno, il Napoli fa tantissimi punti. Napoli? Scusa, ti ho sentito male. Il Napoli fa tantissimi punti, secondo me, se continua come il titolo. Il Milan, ragazzi, il Milan deve assemblarli, ma ha comprato super giocatori e comprerà ancora una punta, quindi non nasconderei. Sì, la Roma è una scommessa che mi intriga, anche se è difficile lo scudetto, ma secondo me sorprenderà la Roma. Molto indebolita. Non sono sicuro, io secondo me a destra Cantor, anche altri giocatori. Non sono e l'Inter d'accordo. Secondo me deve arrivare, cioè tra poco arriva l'Inter sul mercato, per ora ovviamente non si è importata. Intanto è arrivato Spalletti, che ha già un bel valore aggiunto per il discorso che facevamo prima. Non so se l'hai sentito, l'ha origliato, ma insomma è inutile che lo ripeto, tanto il mio pensiero. Sì, io sono un grande estimatore di Spalletti. No, ma anch'io e tirerà fuori ma qualcosa. Ma poi arrivano da... i colpi dell'Inter. Ma vedrai sì, che arrivano sì, i colpi. Sì, no, ma anche sono d'accordo anche su questo. Massimo, ciao. Alla prossima. Alla prossima. Dunque, abbiamo parlato di Dybala, di Barcellona, di Neymar, di queste storie che si intrecciano e si incrociano, e quindi adesso andiamo da Tancredi Palmeri in Sports TV, che ci racconta tutto. Ciao. Buongiorno ragazzi. Allora, Neymar, allora. 222 è scritto sulla clausola rescissoria del Barcellona, quindi se la legge vale per tutti come mi hanno insegnato la giurisprudenza, vai lì, dai soldi e ti devono dare il cammello. E la chiave forse non sono nemmeno i 222, capo, perché la chiave forse è un altro numero, 100, che sarebbe l'entrance fee o commissione, non è giusto, non mi sì. Sarebbe una sorta di premio di entrata che sì. Sarebbe sarebbe promesso a il padre di Neymar. Eccolo là. Eccola, per cui, però ma chi di entrance fee ferisce, di entrance fee perisce, perché sì. In verità anche il Barcellona pagò una cosa simile al padre Neymar quando Neymar arrivò al Santos, sì. E questo rende sì, ancora, questo lo sappiamo, questa vicenda puzzolente. Questo rende ancora infatti nebuloso il prezzo di Neymar, che quello che ha pagato il Barcellona per lui, che dovrebbe essere comunque sia di 105 milioni di euro, sì. Però comunque sì, ieri abbiamo visto il sorpasso a destra di Piqué a qualsiasi ipotesi futura di presidenza, è già un presidente in pettole praticamente, sì, con un Bartomeu su cui pendono le possibili, insomma, indagini e condanne, anche perché insomma gli ultimi tre presidenti del Barcellona tutti, sì, incriminati, Núñez, Laporta, Rosell, sì, sì, sì, sì, con Piqué, sì, sì, che ha acquistato Sequeda. Rimane, e vabbè, però può twittare quel che vuole. Bravissimo, dipende da altre cose, diciamo, come hai spiegato perfettamente. Appare come, allora, non se lo può essere tirato totalmente fuori dalla tasca, però appare come quando ti vogliono convincere ad andare, sì, ti hanno già no, parlato. Ma, ascolta, in un minuto e mezzo toglimi questa curiosità. Sì. Allora, abbiamo detto, se Neymar va via, assalto a Dybala. Si dice gentleman agreement con la Juventus, se si avvicina a Barcellona. Io al gentleman agreement cioè mangono nulla legalmente. Come sta la cosa? Allora, il Barcellona è stato il primo a contare. Vabbè, posto che insomma è difficile fare una roadmap a questi livelli di chi per prima ha contattato chi. Però lo scorso Natale il, sì, Barcellona fu il primo a intavolare un vero e proprio discorso, sì, con l'entourage di Dybala. Mentre la Juventus, scusami, Real Madrid percorse dei passi più istituzionali quasi, sì, il Barcellona invece andò attraverso il giocatore dell'entourage, che è il pregio e il difetto sempre del Barcellona, perché, sì, le trattative che non è riuscito a portare a termine il Barcellona sono state proprio quanto ha scavalcato troppo la società andando a prendere il giocatore. Però di fatto la promessa è là. Ora, io credo che Dybala non ci stia in questo momento, fino a ieri, nemmeno pensando. Sì, però, no, ma piuttosto, Tancredi, devo chiudere, però non c'è niente di scritto, siamo sicuri? Escludiamo questa tovagliolo, questo pezzo di carta magari firmato in un, che ne so, in un pub. Questo è che io sappia, no, ma francamente, okay, non metterei la mano su questo. Esatto, io neanche. Nemmeno sulla mia parola in questo caso. Io neanche, mio caro Tank. Grazie. Comunque, Tancredi Palmieri. Perché Real Madrid e quegli 80 milioni di volata non si richiede. Aspetta, che abbiamo altri colpi in canna, ne parliamo nei prossimi giorni. Grazie Tancredi Palmieri e grazie, ciao, a tutti, ragazzi. Voi. Ciao e saluto anche, ciao, tutti i nostri ascoltatori. Torniamo domani alle 2. Giorgio De Luca è il nostro autore e Paolo Corleoni in regia. Ci sentiamo domani. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Salute!